battaglia senza limiti, mi domani. Sono una bastarda senza nome, nulla di me sai, mai saprai. Sono il perfetto posto della consuetudine, non è abitudine. A sera chiudere in me solitudine, non sono un utile al mio prossimo, sempre un pessimo concetto. E sta di fatto che ho rifatto a contare il mio percorso, e tutto il resto non ha senso. Indelebile l'inchiostro, magari mostro sicurezza in ogni gesto, cerco il pretesto, ma poi finisco con rimettere la testa dentro il cesso. E allora penso quanto dolore può racchiudere sto canto, e allora sento quanto tutto è falso, tutto è spento. Il vuoto e seduto in braccio al fatto che al contrario segni il suo processo. La via d'accesso inaccessibile, sensibile al palato, il gusto amare, avaro della vita. Seduta al banco di scuola, testa chiusa a scrivere con la schiuma in bocca. Ed è una musa sciocca che rimbocchi i miei lenzuoli. La notte prima di cadere nell'abbraccio dei demoni, suoni mi accompagnano al domani. Con le mie mani curo le ferite fatte. Non mi resta che subire fra le mille sigarette, zitte e maschere sprofondate nell'abisso del processo inverso. E zitte e maschere, zitte e maschere. Paragono la mia vita ad una parodia.